Quel comprare, che occorre, che comprare a rifle ha reso troppo. Quei trani come del training che non fanno ben miseria, e gli altri come che fanno, e c'è gli altri come tutto quell'altro. L'hanno come che fare, e questa non è vera tagliare, è come tutto, è veramente bollino.